Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, bentornati. Luca Tremolare ai microfoni, Luca Dello Iacovo ai microfoni. Abbiamo sentito poco fa durante il giornale radio, sono usciti i nomi dei Nobel per la fisica: Charles Kao per le fibre ottiche, Willard Boyle e George Smith invece per l'invenzione del circuito a semiconduttori per i sensori, quelli delle macchine fotografiche digitali. Abbiamo in collegamento Andrea Carobene è un autore di Nobel, il nostro giornalista scientifico di riferimento. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Ci spieghi un po' il significato di queste scoperte, sia quella per delle fibre ottiche che quella dei sensori CCD. Allora, guarda, quest'anno gli accademici svedesi hanno definito queste scoperte delle scoperte rivoluzionarie nell'ottica, perché sono entrambi i Nobel sono stati dati a persone che sono riuscite a trovare delle applicazioni tecnologiche per la luce. Kao è stato colui che ha per prima intuito le potenzialità di trasmissione delle fibre ottiche, che poi sono le fibre con cui oggi viaggia tutta internet e tutti i sistemi, certo, di telecomunicazione. Allora, lui nel 1966, quando lui si occupava di queste cose, le fibre ottiche che c'erano riuscivano a trasmettere il segnale luminoso su cui viaggiano i dati per al massimo 20 metri. Kao ha trovato una tecnica per aumentare questa distanza ad alcuni chilometri, che è quello che oggi viene utilizzato. Si pensa che grazie alla sua intuizione, lui praticamente ha detto che le fibre ottiche per poter trasmettere il segnale devono essere realizzate con del vetro più puro. Attenzione. Oggi praticamente sono state stese oltre 1 miliardo di chilometri di fibre ottiche, cioè praticamente una lunghezza che è capace di girare attorno alla Terra 25.000 volte. Questo è il... Diciamo che ci ha visto giusto. Mentre, esatto, per quanto riguarda Boyle e Schmidt? Ecco, loro sono stati i primi che hanno realizzato nel 1969 il sensore CCD, Charge Coupled Device, dispositivo ad accoppiamento di carica, che è un termine tecnico per l'occhio digitale, che è lo strumento con il quale si trasforma un'immagine in un segnale digitale. L'occhio digitale è quello che fa funzionare le nostre macchine fotografiche digitali. Ecco Andrea, sbaglio o sono tutte e due Nobel della scienza che però guardano molto alla tecnologia? Sì, guardano molto la tecnologia e fondamentalmente sono un ringraziamento a tre persone che hanno, diciamo, realizzato una tecnologia di cui oggi noi non potremmo fare a meno, sia in ambito nelle telecomunicazioni, sia anche a livello scientifico. Con i sensori CCD, grazie ai CCD sono stati pubblicati decine di migliaia di articoli scientifici, perché questi apparecchi vengono usati non solo per le macchine fotografiche digitali, ma per gli strumenti di diagnostica medica, per i grandi telescopi come il telescopio Hubble. Per cui credo che sia veramente un Nobel di ringraziamento a queste persone che hanno visto giusto. Un Nobel pratico. Ti ringrazio Andrea Carobene. Dalla velocità della fibra ottica invece a un suono di ingranaggi, perché l'innovazione non è solo tecnologia, velocità, luci, design, alta tecnologia, vero Luca Dello Iacovo? Esatto, c'è un'innovazione che invece riscopre la lentezza, riscopre la tradizione, riscopre anche gli ingranaggi, come ha fatto Giovanni Bonotto. Ecco, tra l'altro questo ritorno in un certo senso all'antico, questo recupero del tempo, questo recupero di determinate tecnologie meccaniche è quanto di più innovativo ci possa essere, nel senso che noi, che poi insomma guardiamo molto a internet, guardiamo molto ai device elettronici, guardiamo molto anche a tutto ciò che è elettronico, ci stiamo forse dimenticando di una parte più antica. Noi abbiamo in collegamento Giovanni Bonotto, che imprenditore tessile, ma subito sentiamo la scheda che ha redatto Luca Dello Iacovo. Addio elettronica, benvenuti in Granaggi e Macchinari Antichi, La fabbrica tessile di Giovanni Bonotto a Molvena ha deciso di rallentare, anzi, di tornare al passato. Per anni Bonotto ha comprato all'asta macchine della tradizione sartoriale mondiale, come antichi e raffinati telai giapponesi. Ma non le ha messe in cantina, sono entrate direttamente in fabbrica. In una giornata Bonotto produce un decimo dei tessuti rispetto a chi usa impianti moderni. Una scommessa azzardata contro i dogmi della globalizzazione, velocità e mercati di massa? Eppure i tessuti di Bonotto sono più densi e pastosi rispetto alla concorrenza asiatica. Le commesse arrivano dalle principali case di moda e il fatturato è salito a 38 milioni di euro. E ora l'imprenditore di Molvena propone un modello innovativo di azienda, la fabbrica lenta a chilometro zero, dove ritorna la tradizione artigianale e il rispetto per l'ambiente. Quindi fabbrica lenta ma velocissima. Buongiorno Bonotto. Salve, buongiorno. Ecco, mi diceva dello Iacovo che in un certo senso voi avete riscoperto la figura del maestro oliatore. Che cos'è esattamente? Ecco, il maestro oliatore è una figura artigianale tra le varie altre che stiamo rispolverando, dove un po' la fabbrica lenta vuol dire il recupero di tutto quello che sono i sistemi produttivi semi-artigianali, un po' quelli che sono stati il nostro, tra virgolette, lo chiamo io, secondo rinascimento, che ha fatto crescere il miracolo italiano dopo seconda guerra mondiale. Quindi procedure industriali sì, però con tutti dei contorni e con un sottofondo di procedure artigianali, dove veramente la mano dell'operatore riesce a contribuire a fare quel prodotto che oggi è solo comunicazione, è stato relegato a produrre prodotti che sono sostenuti dalla comunicazione, mentre il maestro oliatore ed altre figure simili contribuiscono a dare, a ritornare a dare quell'anima e a fare che i prodotti siano maieutici. Ecco, perché chilometro zero? Tra l'altro ricordiamo subito 800 24 00 24 per chiamare in trasmissione, per raccontarci insomma se è giusto o sbagliato insomma mettere un po' di lentezza, rallentare un po' il passo, cercare un po' di recuperare il tempo. Mentre diamo anche l'SMS, che invece è un po' più veloce, 349 238 6666. Allora, rapidamente, perché a chilometro zero? Il chilometro zero è produrre dal filato al tessuto al capo di abbigliamento dentro una stessa unità produttiva. Vuol dire che si abbattono tutti i costi che finora forse erano sopportabili, ma da oggi in poi non lo possono essere più, che sono tutti i costi di trasferimento e anche vendita commerciale del prodotto. Noi calcoliamo che riusciamo a avere dentro la stessa fabbrica dove si produce filato, tessuto e vestito, riusciamo a avere veramente una grande competitività per ritornare a mantenere e a riformare l'industria manifatturiera. Ecco, non è che è solo, voglio fare una domanda un po' tremenda, però cioè non è che è solo marketing questa storia della fabbrica lenta? In una battuta, cioè sì. È lecito pensare male, nel senso, in un momento in cui tutto deve essere super efficiente, rapido, qualcuno dice io mi distingo, per distinguermi lancio lo slogan della lentezza. Avete voi detto prima appunto i fatturati e gli impiegati che la fabbrica lenta ha, quindi è un percorso che è una maturazione, non le nascondo che sono mesi difficilissimi, questo comunque per tutta l'industria, però vuole essere una visione ottimista dove comunque ogni giorno la mia sfida è nel credere che si aggiunge e nasce un cliente nuovo che ha voglia di comprare in modo diverso e che apprezza prodotti che abbiano delle qualità diverse, mentre oggi, ripeto, i prodotti sono stati solo schiacciati dalla comunicazione. Ecco, mentre ci sono già degli SMS che applaudono alla fabbrica lenta, ma non ci sono solo fabbriche lente, vero Luca? Sì, perché la fabbrica lenta fa parte di un modo appunto di rivedere la produzione, ma c'è anche un modo di rivedere l'alimentazione che parte dalla lentezza. Ed è famoso il fenomeno di slow food, e noi abbiamo in linea Giovanni Ruffa di Slow Food. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, ritorno quindi alla lentezza nella fabbrica e anche alla tradizione del cibo. Ma tutto ciò è innovativo? Siamo sicuri? Parlarne adesso per noi di Slow Food sa un po' di muffa, perché noi abbiamo lanciato il manifesto dello Slow Food nel 1987. Ecco, la fermo un attimo, perché sì. Luca Dello Iacolo ci legge uno stralcio del manifesto dello Slow Food. Il manifesto è stato lanciato appunto, come dice, nell'87 e dice: «La velocità è diventata la nostra catena. Tutti siamo in preda allo stesso virus, la fast life, che sconvolge le nostre abitudini, ci assale fin nelle nostre case, ci rinchiude a nutrirci nei fast food. Se la fast life, in nome della produttività, ha modificato la nostra vita e minaccia l'ambiente e il paesaggio, lo slow food è oggi risposta d'avanguardia. Lo slow food assicura un avvenire migliore». Siamo d'accordo? Beh, naturalmente sì, perché io, vabbè, faccio parte di Slow Food e conosco Slow Food fin dai tempi in cui appunto fu lanciato il manifesto. Ma non bisogna vedere in queste parole e anche in certe battaglie che fa Slow Food, come per esempio quelle per la difesa dei prodotti tipici, locali, eccetera, delle battaglie di retroguardia, perché noi pensiamo al contrario che, come diceva già lo stesso manifesto, siano la risposta d'avanguardia, perché altrimenti non vediamo prospettive a un mondo e a un modo di produzione che vanno sempre più in fretta, che vanno sempre più veloci, che però sono sempre più inquinanti, sempre più disturbanti per l'ambiente e per la vita stessa di ciascuno di noi. Ecco, ma abbia pazienza, ci sono delle scelte che fatico un po' a capire, ma per esempio la robiola di Roccaverano. Perché è Slow Food? La robiola di Roccaverano è l'unico formaggio DOP, cioè denominazione di origine protetta, europea, a base di solo latte di capra. Ora, questo formaggio alcuni anni fa rischiava di scomparire perché si trovava molto più facile produrlo con latte di mucca e quindi esisteva sempre una robiola chiamata di Roccaverano, ma che non aveva niente più a vedere con quella tradizionale fatta con il latte di capra. Ovviamente la robiola fatta con il latte di mucca, pur essendo un formaggio mangiabile e rispettabile, non ha niente in comune, non ha niente di simile a quello prodotto con il latte di capra, che è molto più caratteristico per quanto riguarda gli aromi, i profumi, i sapori. Quindi noi, quando facciamo questa battaglia, lo facciamo per conservare delle tipicità che sono anche però delle piccole porzioni nel nostro piacere quotidiano, a tavola e non a tavola. Ecco la ragione per cui la robiola di Roccaverano, secondo noi, merita di essere tutelata. Ecco, ma chi è che decide? Cioè, nel senso che, per esempio, non credo che sia una questione di gusto, perché magari a me piace di più quella fatta con il latte mucca. Cioè, certo. Credo che ci siano delle regole o è arbitrario? No, diciamo che ci sono delle regole. Le regole appunto delle DOP, per esempio, le regole europee e le regole nazionali. Dopodiché Slow Food ha lanciato una grande campagna che si chiama quella dei presidi Slow Food, in cui ha proposto una serie di cose e ha stilato per ogni produzione un disciplinare che prevede, che stabilisce quali sono i modi di produrre queste tipicità e quali sono le caratteristiche organolettiche che questi prodotti debbano avere. Ecco, chi aderisce ovviamente liberamente ha diritto a mettere il proprio bollino, il nostro bollino di Presidio Slow Food, e quindi la gente che lo compra sa di che cosa si tratta. Ecco, qual è l'economia generata da Slow Food in termini di indotto? Ma dunque, l'economia sicuramente ha risentito in maniera benefica di questa operazione, perché per esempio, per restare a Roccaverano era una situazione abbastanza isolata, anche con un'agricoltura difficile, e anche per questo la produzione del formaggio era in crisi. con il rilancio attuato da Slow Food e naturalmente con la collaborazione anche di enti locali e di realtà locali di tipo diverso, negli ultimi anni sono nate nuove realtà produttive, quindi significa che anche il comparto economico di quella zona ha tratto dei vantaggi. C'è stata una ricerca fatta alcuni anni fa dal Sole 24 Ore rispetto all'impatto economico dei presidi sulla realtà agricola italiana e i risultati sono stati molto positivi, perché sono aumentate le produzioni, sono aumentate le vendite e sono aumentate le redditività delle varie aziende. Ecco, la fermo un attimo perché c'è anche un altro caso che riguarda la gestione del tempo che sta prendendo piede in Italia, e mi riferisco alle banche del tempo, dove le persone possono scambiarsi in effetti delle ore di lavoro. Abbiamo con noi Grazia Pratella, che è vicepresidente nazionale dell'associazione Banche del Tempo. Buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro leggo un SMS al volo: lento è come il ricco, è una cosa di nicchia perché solo i ricchi possono permettersi la lentezza. Francesco, beh, un po' qualcuno avanza dei sospetti. A proposito della lentezza? Sì, del recuperare un po', diciamo recuperare il tempo anche, recuperare quindi lo slow food, quindi il ritorno a una vita più a contatto con i propri ritmi, ecco. Ma sicuramente diciamo che fino ad oggi è stata un vantaggio delle persone ricche o delle persone come me, per esempio, che sono in pensione come altri, no? Il problema è che forse noi dobbiamo, anche in funzione di quello che è il futuro del nostro pianeta e quello che noi stiamo vedendo, fare delle riflessioni sul nostro modo di vivere. Noi consumiamo troppo, noi sprechiamo troppo tempo, quindi quando a volte io dico alle persone: perché non venite alle banche del tempo? Dico: ma noi non abbiamo tempo. Ma la banca, ecco, del tempo, la fermo, perché noi abbiamo una scheda che spiega un po' quello che sono le banche del tempo. È una lunga strada quella che porta Grazia Pratella fino alle banche del tempo. Insegnante di economia aziendale, si interessa del mondo no profit e partecipa a un'associazione culturale nella sua città, Bresso, in Lombardia. Nella metà degli anni 90, da Parma, arriva l'idea delle banche del tempo, luoghi per prestare e ricevere in cambio ore di lavoro da altre persone. L'iniziativa prende piede a Bresso e Grazia Pratella partecipa alla fondazione di un'associazione nazionale per coordinare le banche del tempo. Oggi sono circa 120 quelle censite, ma si stima che siano molte di più. Ecco, io le chiedo di fermarsi proprio in segno di quello che è lo spirito della puntata, perché dobbiamo dare la linea alla borsa in diretta, che invece è velocissima, ma raccontiamo già Luca quello che andremo a spiegare nel prossimo blocco. Sì, perché parleremo più approfonditamente delle banche del tempo per capire come funzionano e vedremo anche come attraverso internet si può donare tempo, e l'esempio più famoso è appunto Wikipedia. Ecco, però un esempio al volo di scambio della banca del tempo. Sì, un esempio particolare che è accaduto nella mia banca del tempo è quello di aiutare una persona anziana che aveva perso una persona cara a scrivere, a fare un recupero memoriale, quindi tornare attraverso le fotografie al ricordo di quella che era stata la vita passata insieme a questa persona. E questo fatto ha permesso di fare anche una forma di elaborazione del lutto, per cui la persona era arrivata nella nostra banca del tempo con grossi problemi psicologici ed è uscita, essendo tornata in un certo senso alla vita, no? A una vita diversa, avendo preso coscienza del fatto che comunque esiste anche la possibilità di perdere una persona cara. In cambio, essendo questo signore un contadino, ci ha dato una mano a sistemare alcuni giardini di soci della Banca del Tempo e dato che ha anche il un orto, ci dà la possibilità di avere della verdura, insomma. Quindi c'è uno scambio di verdura contro valori più nobili della verdura, è sbagliato, però insomma... Più profondi e che comunque poi cambiano la vita, ecco, delle persone. Prendiamoci tempo, ora diamo la linea alle velocissime borse in diretta, mentre noi torneremo a parlare della Banca del Tempo e poi anche di Africa, no? Africa, paesi di sviluppo, economia del dono. Nova Lab 24. Insomma, stiamo facendo un po' il panegirico della fabbrica lenta, stiamo cercando di capire se è possibile rallentare i ritmi e restare innovativi allo stesso tempo. Cioè andare indietro per andare poi più avanti e per ritrovare nuove ispirazioni dal passato. Ecco, tu ci credi. È un futuro anteriore. È un futuro anteriore, ma ci credi? Nel senso che noi siamo passati dalle fibre ottiche del premio Nobel a ragionare su slow food, sull'esempio della fabbrica lenta che rimette in auge la figura dell'oliatore, cioè una figura antica. Tocchiamo poi anche appunto il tema delle banche del tempo e quindi dello scambio e quindi vediamo come tutto questo in effetti contribuisce a migliorare la qualità della vita e questo fa la differenza con l'idea invece, con il dogma della velocità, con il dogma della produzione di massa. Ecco, Grazia Pradella è vicepresidente dell'Associazione Nazionale delle Banche del Tempo, che sono delle istituzioni, degli organismi straordinari per certi versi, perché insomma volatilizzano, cioè rendono inutile il denaro, ma si scambiano beni, no? Buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, mi diceva Luca Dello Iaco, anzi mi dice Luca Dello Iaco che ci sono esperienze strane anche. Strane e particolari e soprattutto utili perché, per esempio, ci si scambia la possibilità di andare su mezzi di trasporto e quindi qualcuno offre un mezzo di trasporto, qualcun altro offre un altro servizio in cambio, come appunto mi raccontava la dottoressa Pratella. Certo. Sì, sì, diciamo che ci sono delle persone che, data l'età magari, per il fatto che non possono più usare la macchina o hanno degli handicap, hanno bisogno magari di piccoli trasporti e poiché i nostri mezzi pubblici non sono attrezzati su certi tipi di distanza, su certi tipi di percorso e soprattutto non sono comodi per una persona che ha delle difficoltà, le banche del tempo possono fornire anche questo servizio. Ovviamente il servizio non è uno contro l'altro, no? Cioè se io presto faccio una cosa a una persona, non è detto che la persona restituisca quello che sa fare a me, la restituisce a qualcun altro, perché lo scambio è circolare, così come accade con il denaro. Allora questa persona che è stata trasportata può avere, anche se ha delle difficoltà, un'età, eccetera, eccetera, delle competenze, delle conoscenze che mette al servizio della banca e chiunque ne abbia bisogno può utilizzare queste cose. Ecco, io recentemente ho letto uno studio su queste comunità, che è la Banca del Tempo, ma anche la possibilità di dare dei passaggi, il co-sharing, il co-housing. Questa ricerca, insomma, mette il dito nella piaga, perché diceva di solito sono tutte esperienze, sono prototipi sociali questi che finiscono quando l'eroe, c'è sempre dietro un eroe dietro queste esperienze, quando l'eroe molla perché si stanca, perché non ha più voglia, queste esperienze che sono spontanee da un certo punto di vista si polverizzano. Beh, da un certo punto di vista sicuramente può essere vero. Il problema è che deve diventare un modo di vivere sociale. Se io ho qualche cosa in più o ho bisogno di una cosa che non ho, posso fare questo scambio e questo deve diventare proprio un modo di vita. Adesso mi viene in mente, proprio in una situazione in cui ci sono anche delle tragedie in Italia dovute all'abbandono del territorio, che in un luogo dove io vado in campagna, una volta c'era la produzione della vite dell'ulivo E adesso alcuni che sono ritornati alla campagna dopo aver fatto tutt'altro nella vita hanno deciso di ripiantare per esempio gli ulivi, che sono una coltivazione molto semplice. E la cosa interessante è che una cosa che avevo introdotto io, la raccolta delle olive, è stata diciamo intrapresa ultimamente da queste persone che si scambiano aiuto. Quindi per esempio io ho il mio terreno con dei piccoli ulivi e faccio la raccolta insieme alle altre persone del territorio che mi danno una mano. Dopodiché io mi sposto nel campo del vicino insieme ad altri, aiuto il vicino a raccogliere. Quindi queste qui, fra l'altro, erano antiche abitudini. Noi le abbiamo riprese perché ci siamo resi conto che poteva essere una cosa utile anche oggi. Ringraziamo. Che vantaggio ne abbiamo a raccogliere le olive? Certo, non ci facciamo grossi quantitativi di olio, però insomma va bene metterle in salamoia, impariamo. Però insomma va bene, nel senso abbiamo capito insomma che la cosa funziona. Ho solo una curiosità, ma voi avete un sito, vi serve internet, vi serve essere collegati alla rete? Certo che ci serve, perché le persone vengono a sapere delle banche del tempo anche attraverso il nostro sito e molto spesso si mettono in contatto con noi e chiedono, noi le inviamo alla banca del tempo più vicina, perché noi siamo un'associazione che svolge un'attività di coordinamento. Ecco, noi metteremo tutti gli indirizzi dell'associazione, quindi anche l'indirizzo del sito della banca del tempo, sul nostro Twitter Novalab24, ma passiamo dalla banca del tempo al tema dell'economia del dono. E cioè di quella economia che è resa possibile da internet e quindi dal dono di tempo su internet, come il caso di Wiki Africa, un'iniziativa italiana che è coordinata da Yolanda Penza. Buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo una scheda su di lei, la sentiamo subito, anche se dobbiamo essere un po' lenti. Arte e Africa sono le stelle polari del percorso di Yolanda Penza. Dal 1998 organizza la Biennale di Dakar in Senegal. Ha esplorato la ricchezza culturale africana dalle piramidi dei faraoni alle terre che hanno visto l'alba dell'uomo, dove tuttora vivono le etnie più antiche del pianeta. Negli ultimi 3 anni ha raccolto informazioni sulle tradizioni e la cultura di Dula, in Camerun. Un progetto che sarà il punto di partenza per una sorta di enciclopedia vocale accessibile dai cellulari. Di recente, Yolanda Penza ha dato vita a una fondazione, iStrike. La sede è in Olanda, ma la squadra è attiva in 5 continenti. Riuscirà l'alleanza tra fondazioni non profit e tecnologia mobile a cambiare il destino dell'Africa? Il nostro grandissimo esperto di Africa e social networking ce l'ho davanti, è Luca Dello Iacovo. E crede assolutamente nella possibilità dei social network e dei telefonini di cambiare in piccole comunità locali e poi anche in realtà più grandi. Tra l'altro l'Economist la settimana scorsa ha dedicato proprio la copertina al potere che i cellulari, la diffusione dei cellulari ha nell'Africa, sia dal punto di vista dell'alfabetizzazione che da un punto di vista dei pagamenti dal punto di vista economico, e quindi della possibilità di scambiarsi denaro, dal punto di vista della salute per ricevere informazioni attraverso SMS, e quindi stanno cambiando letteralmente l'economia in molti stati. Yolanda Penza ci può raccontare qual è il progetto di Wiki Africa e qual è il suo obiettivo? L'Africa è un progetto recente, sì. Nel 2007 in collaborazione con Wikimedia Italia, e quello che abbiamo fatto fin dall'inizio del progetto è quello di sperimentare diversi tipi di collaborazione. Come voi stavate dicendo, appunto, uno degli aspetti più affascinanti di Wikipedia è la comunità, quindi questo regalare del tempo, il fatto che sia la più grande organizzazione no profit del mondo, quindi un fenomeno estremamente diverso rispetto a quello che conoscevamo già, non un'enciclopedia da consultare, ma un'enciclopedia da scrivere. E il tempo è un altro elemento chiave nei processi di negoziazione del sapere. La cosa interessante è appunto di coinvolgere partner partner dall'Africa e cercare di aumentare i contenuti sull'Africa di Wikipedia è proprio quello di appoggiarsi a una piattaforma condivisa e riuscire a fare in modo che persone appunto dal continente, ma anche persone collegate al continente, interessate a questo, entrino in contatto con un sapere che ormai è il primo nei risultati di Google, quindi assolutamente mainstream. Ecco, dottoressa Penza, lei che si trova adesso accanto, diciamo, a Bellagio per un forum che riguarda la tecnologia e i telefonini, che cosa ci può dire riguardo agli esperimenti che riguardano appunto la cultura e la trasmissione della cultura attraverso la tecnologia? Nel nostro caso quello che ci interessava della telefonia mobile è proprio l'aspetto di educazione, che è un aspetto ancora relativamente poco esplorato. Esistono moltissime potenzialità. Il fatto che in Africa la telefonia mobile abbia avuto una diffusione così incredibile fa sì che sia uno strumento estremamente potente anche per degli usi all'interno delle scuole. Citavate appunto il caso di Douala in Camerun, questa città con un clima anche tra l'altro molto difficile per l'umidità, in cui i libri scolastici sono poco diffusi nelle classi. Il telefonino è uno strumento, cioè uno strumento posseduto da molte delle famiglie e può essere appunto uno strumento utile. L'incontro di Bellagio, che è un incontro ospitato dalla Fondazione Rockefeller di Bellagio, ha proprio come obiettivo quello di mettere insieme persone con competenze diverse. Douala, la capitale economica del Camerun, è uno dei terreni più interessanti dove sperimentare appunto un progetto legato a educazione e a informazioni proprio sulla memoria, il patrimonio e la storia della città. La Fondazione Lettera 27 collabora con un'organizzazione che si chiama Dual Art, che ha già fatto moltissimi progetti negli ultimi 20 anni, ha fatto progetti, opere d'arte, progetti legati all'educazione, trasformazioni con la costruzione di infrastrutture all'interno della città. E il progetto proprio sul quale stiamo lavorando e è anche al centro dell'attenzione di questo convegno a Bellagio è questa idea di trasferire contenuti sulla città di Douala, sulla sua memoria, la sua storia, trasferirli su Wikipedia e renderli accessibili attraverso la telefonia mobile. Grazie Yolanda Penza, in bocca al lupo allora. Grazie a voi. Noi invece ci sentiamo tra pochissimo, linea alle strade in diretta. Nova Lab 24. Nova Lab 24. La pubblicità sui blog deve essere dichiarata esplicitamente. La Federal Communication Commission americana ha approvato una nuova legge sui blogger che nascondono i link promozionali. I trasgressori dovranno pagare fino a $11,000. Tutela degli utenti o censura della rete? Cellulari in legno di cipresso, antitarlo e impermeabile, completi di touchscreen e fotocamera. A produrli ci ha pensato il marchio Docomo, che ne ha presentato due prototipi alla fiera CeaTech di Kiba, in Giappone. L'azienda non ha ancora deciso se commercializzarli. Si chiama SH93 ed è sicuramente l'hard disk più hard del mondo. Il dispositivo, prodotto da EIDATA, sembra fatto apposta per gli amanti dell'avventura estrema. Resistente agli shock, può perfino resistere alle cadute in mare e ha una memoria di 640 giga. Prezzo e disponibilità non sono stati ancora resi noti. Da oggi fino all'11 ottobre il centro di Milano sarà teatro di Innovation Circus, kermesse dedicata al tema dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni future. Tra la Loggia dei Mercanti e il Palazzo Giureconsulti si terrà un ricco calendario di convegni, incontri, seminari ed eventi speciali. Sarà presente anche Nova con gli autori di Novalab 24. Per informazioni www.innovation.circus.it. Insomma, saremo sul territorio questa settimana a Milano, gli autori di Nova, tu Luca Dello Jacopo, quando parli e quando ti esprimi. Io mi esprimerò domani pomeriggio alla Loggia dei Mercanti e il tema di Innovation Circus è legato a tutto il mondo dell'innovazione, quindi all'energia, alla sostenibilità, alla tecnologia, a internet, a quel mondo che sta emergendo e che si sta diffondendo nella nostra società. Io invece sarò di domenica e infatti volevo restare a casa, ma sarò là domenica, però questo è un altro problema, mentre noi abbiamo una bella notizia, anche se la puntata, noi abbiamo fatto tutta questa puntata sostanzialmente per migliorare il nostro karma, visto che siamo nella vita privata e anche sulla carta piuttosto persone scure, anche un po' maligne. E quindi in debito di karma, e quindi adesso lo dobbiamo recuperare, ci servono punti. Abbiamo questa good news, cioè un'associazione Onlus che ecco, tutela i ragazzi down che tutela fa brutto, però cioè un Onlus sui ragazzi down ci ha chiesto, insomma, ha ascoltato la puntata sul banco informatico, sul riciclo, sui computer, e insomma abbiamo avuto il piacere di metterli in contatto. Così riusciranno ad avere appunto delle attrezzature informatiche e quindi riusciranno così a proseguire, diciamo, il loro rapporto con i ragazzi down. Quindi abbiamo avuto una funzione anche positiva, se vuoi, nel senso, se riusciamo a mettere in circolazione, esatto, queste conoscenze, queste idee e questa solidarietà anche tra le persone. Perché insomma gli obiettivi nostri sono due, diciamolo adesso così non lo diciamo più. Uno, essere una piattaforma per raccontare storie di innovazione e raccontare che esistono degli innovatori degli in Italia, degli avventurieri, persone che vogliono cambiare il mondo, ci sono e noi ve le facciamo ascoltare, e poi perché no essere anche un luogo dove si incontrano questi innovatori, sanno dell'esistenza, sanno che esistono anche dei prototipi sociali diversi come la banca del tempo, come anche tutte le varie forme dell'economia del domino. Non esiste solo diciamo la velocità, non esiste solo quel tipo di mondo, ne esistono molti altri. E da questo scambio di idee poi possono appunto nascere dei progetti, dei prototipi e attraverso poi l'esperienza, questi prototipi possono anche poi cambiare la vita stessa delle persone che li propongono. Noi staremo qua a osservarli, staremo qui a raccontarli, più che osservarli, li racconteremo al meglio delle nostre forze, della nostra voce. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Luca Tremolada e da Luca Dello Jacopo. A domani! Nuova Seat Exeo ST. Scoprila nelle concessionarie Seat. Vi ha presentato Nova Lab 24. We'll be right back.